Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Ora, non farò di certo una trasmissione di un'ora sul lancio di scarpe da parte di un iracheno nei confronti del presidente americano Bush, peraltro lesto nello scansarle. Anche se quel gesto, che ha fatto il giro del mondo, il più visto in tutto il mondo in assoluto, è già diventato per molti un simbolo, per esempio per molti nel mondo arabo, il gesto di Muntaser al-Zaidi, giornalista iracheno che ha appunto lanciato le scarpe, un gesto tra l'altro molto offensivo nel mondo arabo. E appunto questo gesto lo ha già eretto a eroe per molti, gli avvocati che fanno la fila per difenderlo rischia 7 anni di carcere, la Libia che promette di premiarlo, per molti ha compiuto un gesto personale, ma ha anche dato voce all'insofferenza di molte persone nei confronti della politica estera americana. Ecco, magari parleremo più di questo a partire da quel lancio di scarpe. Che eredità lascia il presidente uscente Bush in politica estera tra Iraq, dove è stato l'altro ieri, Afghanistan, dove è stato invece ieri, cosa è stato fatto di sbagliato, cosa è giusto 5 anni dopo l'invasione dell'Iraq. Ne parliamo con diversi ospiti, a cominciare da due che oggi sono senatori, ma insomma di questi temi se ne sono occupati sul campo per lungo tempo. La senatrice Barbara Contini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, nel Popolo buongiorno della Libertà. Oggi è responsabile Azzurri nel Mondo, ma insomma la ricordiamo, anche è stata governatrice nella provincia di Nassiriya. Voglio salutare anche il generale Leonardo Del Vecchio, buongiorno. Buongiorno, sono Mauro Del sì, Vecchio. Sì, mi perdoni, Mauro Del Vecchio, generale, del Partito Democratico oggi, ma è stato ed è un generale di lungo corso, operazioni in tanti campi, tra cui dal 2005 al 2006 è stato capo delle forze NATO, l'ISAF, in Afghanistan. Poi saluto, la ringrazio negli Stati Uniti, dunque è notte, ma sta con noi, la ringrazio molto, la professoressa Loretta Napoleoni, economista. Buongiorno professoressa. Grazie, esperta buongiorno. Di terrorismo, tra l'altro ha scritto da poco l'ultimo libro, I numeri del terrore, perché non dobbiamo avere paura. E saluto anche con molto piacere un ritorno anche in Italia di un fotoreporter che gli ascoltatori di Radio 24 hanno apprezzato. Si tratta di Franco Pagetti, fotoreporter italiano. Ciao Franco, ben ritrovato. Buongiorno. Fotoreporter che lavora per l'agenzia Seven, lavora per il Time e passa grandissima parte della sua vita in Iraq. Che lo ha fatto almeno in tutti questi anni. Alle 9:10, qual è l'eredità della politica estera americana con il presidente Bush uscente, il presidente entrante Obama, soprattutto in Iraq e Afghanistan? Partiamo da quello che ci ha detto, l'abbiamo registrato pochi minuti, ieri sera tardi, Edward Luttwak, un analista politico, politologo americano, non ha bisogno di grande presentazione, anche uno che come sapete non ha mai peli sulla lingua e quindi è un po' un provocatore nelle sue analisi e per questo ci piace anche, insomma, poi sulle idee siamo qui per discuterne. A partire ovviamente Luttwak ci ha spiegato cosa ne pensa di quel gesto del lancio di scarpe del giornalista iracheno, che lanciando le scarpe ha anche gridato un epiteto, anche questo molto offensivo per il mondo arabo, quello di cane al presidente americano Bush. Sentiamo Luttwak. È l'unico paese arabo dove tu, un giornalista in una conferenza di stampa, può essere abbastanza cretino e scortese e ragazzaccio di buttare un paio di scarpe senza che lui e la sua famiglia non siano esterminati. Gesto futile, fatto perché appunto non è un dittatore, non ti fa fucilare, e nel mondo arabo può essere applaudito, nel mondo europeo, americano, giapponese sarebbe considerato un stupido, una persona, un ragazzaccio adulto, non so come dire queste cose. È un sintomo di cultura molto interessante. Però fa un certo effetto vedere lanciare le scarpe al presidente americano. Sì, vede, lancia le scarpe e non colpisce neanche. Il presidente era più agile di come lui era abile, ma questo è il gesto che può permettersi. Capisci? a Saddam Hussein le scarpe non si gettano. Parliamo della ricostruzione. New York Times ha svelato questo rapporto in cui si dice che la ricostruzione dell'Iraq è stata un po' sbagliata, falsata, con cifre anche... Beh, sai, hanno trasferito fondi dal Tesoro americano a varie imprese locali o internazionali che in condizioni di guerra, senza conoscere il territorio, hanno fatto, sai, il tipo di roba che si fanno in queste circostanze. Volevano fare qualcosa e l'hanno fatto con bassissimo livello di efficienza e con tutte le opportunità per furto e così via. Questo, sai, quando tu trasferisci, non so, soldi dal nord Italia al sud Italia, Cassa del Mezzogiorno, gli anni 60, anni 70, per fare cose, allora c'è un altissimo livello di furto, bassissimo livello di efficienza. La gente come me, che erano contrari a qualsiasi forma di investimento, era anche perché l'Iraq infatti produce petrolio, hanno risorse, hanno soldi e possono fare loro queste cose, lascia loro fare l'inefficienza o la corruzione. Qui c'era il disaccordo, c'erano quelli che volevano prendere l'Iraq, occupare l'Iraq, fare dell'Iraq una democrazia, e quegli altri molto meno ambiziosi come io stesso, che dicevano o lascia l'Iraq in pace o andiamo lì a rimuovere Saddam Hussein, facciamo fuori il dittatore pericoloso, ma non occupiamo, non tentiamo di ricostruire, di rifare e così via. 5 anni dopo, è stato un errore andare in Iraq o no? In mia opinione sì, io ero contrario alla guerra dell'Iraq perché pensavo che Saddam Hussein sviluppa roba, si bombarda la roba, non c'è bisogno di invadere, occupare e prendere responsabilità per un paese di questo tipo. C'erano altre priorità nel mondo. Se si voleva salvare la gente, io ho una lunga lista di interventi che si potevano fare meglio. Tipo i primi due? Per esempio fermare il genocidio in Darfur. Puoi andare in Zimbabwe e far fuori Mugabe, che sta distruggendo l'economia del suo paese. Adesso addirittura c'è il colera perché non hanno la clorina per purificare l'acqua. Allora, poi si può pensare quello che si vuole su Luttwak, che dice è stato un errore andare in Iraq, molto meglio risolvere i problemi in Darfur e o in Zimbabwe. Professoressa Napoleoni, le chiedo, visto che lei è negli Stati Uniti, si parla più delle scarpe lanciate o di, per esempio, questo rapporto svelato dal New York Times che svela la ricostruzione dell'Iraq è stata un po' un mezzo fallimento? Si parla più delle scarpe lanciate, chiaramente, cioè, nel senso, come diciamo l'opinione pubblica è rimasta alquanto sorpresa, direi. E come ha detto Luttwak, in realtà in Occidente queste cose non si fanno, anche se moltissime persone vorrebbero farlo, nel senso George Bush è estremamente poco popolare negli Stati Uniti, però è così, insomma il rapporto del New York Times è sicuramente un rapporto molto importante, però bisogna dire che qui della guerra in Iraq si parla sempre meno, il problema fondamentale al momento è la crisi economica, a novembre più di 500.000 di americani hanno perso il lavoro, e c'è questa sensazione proprio di crisi, per cui il paese si è un po' rivoltato su se stesso e quindi guarda più all'interno che non all'esterno. Io vorrei chiedere anche su questa frase: è stato un errore andare in Iraq secondo Luttwak, cosa che peraltro Luttwak ha sempre detto, non è che oggi ha cambiato idea, ha sempre detto io sono sempre stato contrario a questa guerra. Senatrice Contini, lei che ne pensa? Che effetto le fa? Io penso che sia inutile piangere sul latte versato, bisogna pensare a ciò che è stato fatto e dirlo per bene. Non credo sia stato un errore, probabilmente le modalità sono state, non so, quello che è accaduto, il fattore di avere sciolto completamente l'armi irachena e l'esercito iracheno, o non aver lasciato noi civili lavorare con le amministrazioni locali, questo, ma non credo che sia stata una brutta cosa togliere di mezzo Saddam Hussein per il viso di tanti sciiti che io ricordo e che ho nel cuore e non solo nel cuore. A lei non è mai capitato che qualcuno minacciasse di lanciare le scarpe? Che nel mondo arabo è una cosa gravissima, voglio dire, una delle offese. È una cosa molto grave, sì, per tanti europei che magari non capiscono bene la mentalità soprattutto di non solo del Medio Orientale, ma di quel paese in particolare. L'Iraq è molto più libero di quanto non lo siano altri paesi più ortodossi, diciamo, e fondamentalisti. È un paese estremamente, un grande paese, un paese aperto, e una cosa del genere lo ha fatto questo giornalista di pancia, si vede lontano un miglio, pensando con ira, odio e passione, e senza rendersi conto di quello a cui sarebbe andato poi incontro dopo. Io sono laureata in giapponese e ritengo sia giusto quello che ha detto il professor Ludwig, che in Giappone sarebbe stata una cosa abbastanza fuori dal normale, ma questa è la grandezza irachena, queste cose possono succedere. Come ha visto, io mi preoccupo più che altro, direi che la sicurezza ha avuto un momento finalmente di lavoro acceso, ma se si può fare sì, a qualcuno di dice anche genere, di sbandamento, perché insomma fare arrivare uno a lanciare le scarpe al presidente più che dovrebbe essere più protetto al mondo. L'età, ovviamente, come sapete tutti voi, noi insomma attori che girano in questi luoghi, quando ci sono conferenze stampa con i presidenti, naturalmente siamo super controllati anche prima di entrare, e anche noi stessi, anche le persone che sono vicine ai presidenti della Repubblica di qualsiasi stato. Io sono appena stata da poco in Libano e per stare col presidente della Repubblica mi hanno ovviamente perquisita, è normale. Sì, ovviamente, sì. Però non potevano requisire le scarpe. Detto questo, anche se vabbè non succede neanche in Italia, anche se qualcuno ci ricorda già via mail, insomma, che ci fu anche qualcuno che lanciò un treppiede al presidente del Consiglio Berlusconi, ma vabbè, insomma, ripeto, non voglio fare una trasmissione su questo. Certo che questo gesto visto in tutto il mondo per qualcuno rappresenta un dissenso. Vorrei andare per un attimo al generale Del Vecchio e poi da Franco Pagetti, visto che insomma Franco Pagetti ci racconterà quello che è l'Iraq di oggi. Ci sono pochi italiani che lo possono visitare e ci stanno. Generale Del Vecchio, prima le chiedo, che effetto le fa sentire, e lei da generale, sentire Ludwig dire è stato un errore, anche la ricostruzione, dire fatta così, si sono messi soldi a pioggia, è stato sbagliato, forse c'è stata corruzione, ha fatto l'esempio vabbè della Cassa del Mezzogiorno e vabbè, quello certo. Magari... Devo dire che la penso molto, molto nella stessa maniera di Ludwig in questa circostanza, e credo che quel discorso sull'errore dell'intervento in Iraq sia naturalmente a questo punto evidente, ma non tanto perché andava eliminato o neutralizzato un dittatore come Saddam Hussein, cosa che su tutti quanti siamo d'accordo, ma forse le modalità andavano riviste. E chiaramente la ricostruzione è stata un elemento importante per la stabilizzazione del paese. Se ci sono state queste manchevolezze, credo che queste manchevolezze siano veramente da additare ad esempio negativo, anche perché poi ne riparleremo, penso, anche per l'Afghanistan. Una ricostruzione sbagliata poi comporta delle reazioni anche dalla popolazione non come quelle che vorremmo. Ha sentito però Ludwig dire io ero della teoria che non andava ricostruito il paese, cioè andiamo lì, deponiamo Saddam Hussein e poi, visto che hanno il petrolio, portiamo quella che è definita in gergo la democrazia, poi si può stare a discutere, e poi facciano loro, hanno le risorse, hanno il petrolio, se sono efficienti bene per loro, se sono non efficienti male per loro. Queste parole che in linea teorica potrebbero essere accolte, poi in pratica vanno applicate in un paese che naturalmente ha subito delle grandi distruzioni, dove c'è stata una situazione estremamente difficile. Ritengo, per aver visto altre situazioni di questo genere, che un intervento della comunità internazionale era ed è necessario, naturalmente un intervento che sia però veramente efficace. Franco Pagetti, l'ultima volta che sei stato in Iraq è stato quanto tempo fa? Franco? Sì, pronto? Sì, eccoci. Un mese fa. Sei stato tra l'altro proprio, se non sbaglio, a Nassiriya. A Nassiriya da quelle parti. Ho letto anche un reportage tuo, fotoreportage, insomma, su Vanity Fair. Com'è l'Iraq oggi? La situazione innanzitutto è migliorata, come sembra anche dai numeri, però tu la vedi sul campo. E in che cosa se è migliorata? La situazione è migliorata in alcuni versi per gli iracheni, nel senso che sono diminuiti sensibilmente gli attentati con autobombe o le roadside, le bombe sulle strade, insomma tutte queste cose è vero sono diminuite soprattutto nella parte nord del paese, nelle province di Al-Anbar e così via, ma la vita in generale non è migliorata, non continua a non esserci corrente elettrica, il sistema fognario è assolutamente fuori uso, completamente fuori uso, la città di Baghdad, se fosse colorata di bianco e di nero e vista dall'alto, sembrerebbe una pelle di leopardo. Ci sono i quartieri sunniti divisi dai quartieri sciiti da mura alte 4 metri, cioè non esiste ricostruzione, tant'è che è persino il Congresso americano ha istituito questo Special Inspector General for Iraq Reconstruction che sta cercando di indagare sulle magagne fatte dall'amministrazione Bush, possiamo dirlo, per la ricostruzione in Iraq, cioè una cosa di cui tutti ridono in tutto l'Iraq, ma dico tutto l'Iraq, è che si stanno costruendo delle grandi aiuole, delle grandi fontane, ma non ci sono le strade. E in che cosa concretamente poi si vede la mancanza di miglioramenti? Dici non c'è appunto elettricità, non c'è acqua, è quello che poi è la vita di tutti i giorni, insomma, che allora tutti siano d'accordo che Saddam andava destituito e va bene, ma destituire Saddam per lasciare il niente è come non averlo destituito. Cioè, se noi abbiamo, giocando a pallone ci rompiamo una gamba e ce la ingessano, dopo, prima di riprendere a camminare, a correre, ci vogliono mesi e mesi di rieducazione. Un paese che ha subito 30 anni di una delle dittature più feroci della terra, e per dittatura, e quando intendiamo dittatura non è solo la mancanza di libertà di movimenti, la mancanza di cultura, la mancanza di educazione, la mancanza di sensibilità civica, non si può pretendere che dopo 30 anni di dittatura gli si parla di democrazia, gli si fanno le elezioni, votano, questi votano con lo stesso sistema sono sempre stati abituati a ragionare e con cui continuano a ragionare, cioè mi fanno ridere che in Iraq c'è la democrazia, in Iraq ci sono delle gang, che sono delle gang sciite, delle gang sunnite, e non si può pensare alla democrazia, non esiste la democrazia in Iraq. Il primo ministro iracheno è contornato da una serie di gang, non esiste, la polizia irachena per andare da un quartiere all'altro bisogna chiedere il permesso al capo tribù. Gli americani per mantenere questa pace che hanno dovuto sborsare milioni e milioni di dollari ai vari capi tribù sunniti, altrimenti la pace e la democrazia in Iraq non c'è. Finché non gli si insegna agli iracheni, ma a qualunque altro popolo, una cultura di democrazia, non si può ricostruire. Ricostruiamo che cosa? 800 24 00 24, vorrei tornare dalla professoressa Napoleoni. Professoressa, lei ci ha già detto, insomma, che sulle prime pagine si parla molto poco di queste situazioni, Iraq e anche Afghanistan, di cui parleremo nella seconda parte, e molto più ovviamente della crisi economica, questo è comprensibile. Le chiedo, che eredità lascia secondo lei Bush, dal punto di vista Bush, l'amministrazione Bush, sulla politica estera, e che è in mano ora e sarà tra poco in mano a Obama? Ma lascia un'eredità tremenda, nel senso che abbiamo due guerre, una in Afghanistan, una in Iraq, che si pensava sarebbero state guerre lampo, in realtà non lo sono state, e lascia un'eredità economica ancora peggiore. Abbiamo un deficit, un debito pubblico di 10.000 miliardi di dollari, quindi pari al 70% del PIL americano, E quindi, diciamo, il nuovo presidente potrà fare ben poco in termini di cambiamenti radicali della politica per risollevare il paese dal punto di vista economico. Per quanto riguarda la politica estera, io credo che la crisi economica peserà anche sulle decisioni della politica estera, e questo non perché diciamo sostenere queste due guerre costerà tantissimo e quindi sarà difficile farlo. Io credo che succederà esattamente il contrario, che si continuerà per un periodo più lungo di quanto si voleva fare su questi due fronti, proprio per distrarre in un certo senso l'attenzione della popolazione dal problema vero di questo paese, che è la crisi economica, e che in un certo senso è anche il problema di tutto quanto l'Occidente. Insomma, qui parliamo di una crisi che potenzialmente potrebbe essere delle dimensioni di una grande depressione. Ecco, quindi quella distrazione potrebbe giocare a favore del nuovo presidente, il che sarebbe drammatico, nel senso il problema dell'Iraq è un problema che va risolto al più presto possibile, e va risolto con un cambiamento drastico della politica americana. Insomma, gli americani se ne devono andare dal paese. Beh, ma questo è un ritiro che è anche previsto, credo, insomma, segnato nel 2011, poi forse con truppe che rimarranno. È stato annunciato, voglio dire, che ci sarà una deadline oltre la quale... Quello che annunciano... gli americani ci hanno detto tantissime cose che poi non erano vere e che non hanno fatto, tra l'altro, quindi quello che annunciano... Lascia un po' il tempo che trovo, diciamo. Vediamo quello che succederà con la Clinton. Ma io comunque non sono molto pessimista sulla situazione irachena. Da questo punto di vista, senatrice Contini, che ne pensa? Voglio dire, troppo scetticismo, troppo pessimismo, oppure c'è anche in quel gesto del lancio di scala? In Italia si parli sempre troppo. Non ho capito, mi scusi. In Italia si parla sempre tanto. Senza conoscere le cose, tanto. Comunque, due cose: il lancio di scarpe credo che sia importantissimo, come la chiamo io, sindrome della Torre di Babele. Volentieri ci troviamo di fronte, quando lavoriamo in paesi stranieri, a persone che non ci conoscono, spesso e volentieri noi conosciamo forse a volte più di loro, a volte loro più di noi. Ecco, l'odio, l'ira che c'è stato per una frase ovviamente capita male, quando il presidente Bush parlava "la guerra non è finita", intendeva ovviamente parlare del processo di stabilizzazione. No? Però lo stesso Bush ha ammesso che quella è stata una frase infelice, la frase che non avrebbe mai ridetto. Certo, dire. Ma per questo motivo i giornalisti che stanno di fronte a un Presidente della Repubblica devono avere l'intelligenza di capire che cosa sta dicendo. Quindi invece la persona ha agito con forza, senza niente, una frase in più, credendo di trovarsi davanti quello che molta gente immagina. Invece i giornalisti irachini, e mi attacco alla seconda cosa che diceva sulla ricostruzione, un grande paese invece, starci lì e stare insieme a loro, è un grandissimo paese, con una grandissima cultura e con un'importantissima amministrazione statale alle spalle. Non c'è veramente poco da insegnar loro, in alcuni casi sono loro che insegnano a noi. La politica estera, l'eredità di Bush in Iraq e in Afghanistan. Thierry da Verona, il primo ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sinta, stamattina vedo che si sta discutendo dell'eredità di Bush in politica estera. Sì. Prometto che non sono un fan del presidente Bush. Vedo solo che stamattina il dibattito è concentrato sugli aspetti militari della sua presidenza. Io non penso che la politica estera americana possa ridursi a quello che esibisce in quanto ai muscoli sui diversi scenari internazionali. No, non solo, stiamo parlando anche di ricostruzione, se c'è o no. Ricordo solo che anche se si è critici nei confronti del presidente Bush, le grandi emergenze mondiali oggi sono rappresentate particolarmente anche dalle emergenze in campo sanitario, dalle grandi pandemie, l'AIDS, la tubercolosi. Se tanta gente oggi per il mondo riceve delle cure sanitarie rispetto a queste malattie, è anche grazie ai fondi che il governo Bush in questi anni ha assicurato a queste persone. Quindi secondo lei insomma l'eredità in politica estera di Bush ha più ampio raggio un'eredità positiva che lascia di un leader? leader che è stato in politica estera? Guarda, io non voglio dire che sia positiva o negativa, noto solo che in questo, io facendo il medico, forse è un aspetto che forse mi interessa di più, ma dico che oggi tra l'altro nell'andare via si è assicurato che altri 13 miliardi di fondi siano allocati a questi fondi. Questo secondo me è una cosa importante. Noi da europei, io sono italiano di origine africana, ma vorrei che guardassimo anche noi cosa facciamo in politica estera. Nulla. Ah, questo, nulla. Su questo c'è, cioè, soprattutto nulla. Per quel che riguarda i fondi, siamo all'ultimo posto per i fondi, per esempio, per contrastare la povertà nel mondo, ma ne abbiamo parlato tra l'altro qualche giorno fa, quando abbiamo parlato di fame nel mondo. Gianni da Bologna, buongiorno. Grazie, sì, Thierry, buongiorno. Ovviamente. Gianni. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo esprimere il mio pensiero e sono d'accordo con Ludwig quando dice che era una guerra sbagliata. Ma sbagliata, il primo, cioè, Bush l'ha voluta fare contro tutto e contro tutti. In sostanza ha seguito quelle indicazioni che poi ultimamente candidamente ha ammesso, cioè, ma forse abbiamo sbagliato a seguire queste informazioni. Ma stiamo scherzando? Sì, forse Gianni, devo dire, su quello forse qualcuno ha un po' equivocato. Non è che Bush ha mai detto abbiamo sbagliato a fare la guerra. Ha ribadito che la guerra era da fare. Ha detto che ci sono state delle interpretazioni dell'intelligence forse fatte in modo sbagliato, ma non ha mai detto, non ha mai fatto retromarcia. Questo per correttezza giornalistica. Comunque, va bene, però lui l'ha voluta fare comunque contro tutto e contro tutti, e tutti a ribadire che non è una guerra da fare. Se là c'è un dittatore, va bene, abbiamo dei sistemi oggi che secondo me lo si andava a prendere e non si metteva a ferro a fuoco una nazione. No, come guarda, io sono anch'io contro la guerra, però tutti, non lo so, cioè non è che tutti erano contro la guerra se questa guerra è stata fatta con la Gran Bretagna. L'ONU, a parte che non ha fatto niente per impedirglielo, ma lui da solo con gli inglesi e con qualcun altro, e non diciamo il nome, ha voluto fare questa guerra, che poi gli altri hanno ammesso che era un errore. Va bene, grazie Gianni. Generale Del Vecchio, le chiedo, per esempio, lei che è generale di esercito se ne intende, è stato un errore, come molti hanno detto, lo scioglimento delle forze armate? È una delle prime cose che hanno fatto gli americani quando hanno conquistato Baghdad e il paese, cioè sciogliere l'esercito iracheno. Assolutamente sì, ritengo che una delle cause di questa difficoltà che naturalmente stiamo registrando nel processo di stabilizzazione del paese sia proprio il fatto che non esisteva più una struttura di sicurezza provata ed con esperienza come c'era precedentemente. È una questione questa estremamente delicata. Un paese come l'Iraq, ma poi vedremo anche come l'Afghanistan, non può naturalmente avere delle prospettive positive di sviluppo, anche di democratizzazione, se non c'è una struttura di sicurezza che garantisca appunto questo sviluppo. E credo quindi che quello possa essere stato un grave errore. Allora, visto che Franco Pagetti, Barbara Contini, vogliamo chiarire su questo punto, perché Franco Pagetti vuole ribadire, visto che la senatrice Contini è stata a Nassiriya, su questo c'è stata forse un'interpretazione diversa delle cose. Tu, Franco, insomma, sostieni che questa ricostruzione non la vedi, sta girando per l'Iraq, o meglio, non la vedi, pur dicendo che si vive meglio di prima, non c'è più la dittatura di Saddam, non si vede, non si tocca con mano quello che è la ricostruzione. No, non c'è, cioè io voglio dire, quello che è rimasto per esempio della missione degli italiani, con il grande rispetto e con la grande stima che io ho dell'esercito italiano, perché li ho conosciuti, li ho visti lavorare, quando si parla dell'esercito italiano tutti aprono gli occhi, tutti aprono le braccia, sono i più amati per il tipo di rapporto che gli italiani anche in divisa riescono a instaurare con le popolazioni locali. A Nassiriya rimpiangevano la partenza degli italiani per come gli italiani si ponevano nei confronti degli iracheni. E questo un non mese fa, un mese non rimpiangevano fa, certo quello che gli italiani non hanno fatto. Ecco, da ricordiamo, tu sei stato un mese fa a Nassiriya, quindi lo rimpiangevano un mese fa la mancanza degli italiani. No, non la sì, dicevano gli italiani ci trattavano bene, parlavano, certo, avevano un dialogo, cercavano di instaurare un rapporto con noi. Apprezzavano veramente i militari italiani, non li vedevano come dei militari, li vedevano come degli amici, veramente delle cose che da italiano fanno piacere, perché poi io mi giravo verso i miei corrispettivi americani e gli ridevo in faccia finalmente una volta. Per quanto riguarda la ricostruzione, l'unica cosa tangibile che si vede a Nassiriya di ricostruito è il Palazzo della Cultura, un obbrobrio di palazzo costruito con i fondi italiani, intestato non so, a nome di un tal colonnello di cui non ricordo neanche il nome. E questo Palazzo della Cultura, che Palazzo della Cultura dovrebbe essere utilizzato dalla popolazione locale, peccato che sia usato dal governatore di stretta osservanza Maliki, cioè del primo ministro sciita, e dai suoi giannizzeri per farci le riunioni di partito, e oppure per fare una pseudo riunione sulla lettura del Corano nel 2008. Insomma, la ricostruzione, senatrice Contini, che vuole replicare a Paggetti? Voglio dire che è stato lì, l'ha vista, forse le foto su Vanity Fair, la ricostruzione l'avrà vista. No, io non leggo Vanity Fair. Beh, comunque, vabbè. Posso risponderle che sì, ha ragione Paggetti, nel senso che lui giustamente, come tutti i giornalisti, vanno a vedere quello che possono andare a vedere, ma senza sapere che cosa e dove le cose sono state fatte, perché stiamo parlando di un paese enorme. Io sono stata per un anno non solamente a Nassiriya, come molti non sanno, ma anche a Bassora, proprio al centro regionale di tutte e quattro le regioni, e ho ancora in mano, visto che io non ho fatto libri, ma ho ancora in mano, grazie a Dio, tutto quello che gli inglesi hanno fatto in tutte e quattro le regioni. Quindi, come altri amici giornalisti sanno, io ho sempre a disposizione e posso fare chiaramente vedere non solo come sono stati spesi i soldi dagli inglesi, ma anche come sono state fatte delle cose che nessuno vedrà mai, perché stiamo parlando di una ricostruzione da zero, stiamo parlando di una ricostruzione della guerra. Ecco, quindi è una cosa completamente diversa che non ha, anzi, io sono a disposizione se c'è bisogno di sapere qualcosa. Ma allora, appunto, che cos'è che non si può vedere, che voglio dire Franco Paggetti non ha visto di concreto, ma che è stato fatto? Ma guardi che ci sono progetti infrastrutturali anche solamente per restaurare e ridare luce, elettricità, acqua a persone, a migliaia, a milioni di persone, che nessuno può vedere perché non sanno com'erano prima. Grazie a Dio noi abbiamo testi, documenti e foto, e a me spiace che la ricostruzione civile non abbia mai dato un'informazione seria, scritta. Io non mi sono permesso di farlo, non l'ho mai fatto, perché reputo che siano gli inglesi a doverlo fare, ma se un giorno avrò il tempo di farlo, sarà giusto farlo, perché insieme a noi hanno collaborato colleghi inglesi del DFID per anni, grandi uomini, centinaia di persone, che è l'esercito nostro civile che praticamente si è adoperato per un anno per ricostruire e mettere su quello che gli iracheni non avrebbero potuto materialmente fare. 800 24 00 24 per intervenire. Alessandro da Brescia, poi andrò dal generale Del Vecchio per cominciare a introdurre la questione Afghanistan, l'altro fronte aperto. Alessandro. Sì, grazie, buongiorno. Io volevo fare una domanda a signor Paggetti, no? Perché credo che poi la realtà dei fatti la sappia meglio chi c'è stato, no? Quindi vabbè, la senatrice. Sì, bene, la faccio. Dice si è fatto, però poi non ci dice cosa, quindi credo poco queste cose. Beh, qualcosa ci ha detto, l'elettricità, l'acqua, noi non sapevamo quello che era. Comunque, faccia la domanda a Paggetti, sennò però, mi fa tornare indietro a polemiche. Ecco, io dico, Paggetti, lei che è stato sul campo proprio, quando gli americani andranno via, quindi tra qualche mese, non si sa adesso bene qualche anno, qualche anno, esatto. Che ne sarà secondo lei che realmente adesso ha vissuto la cosa dell'Iraq? Allora, domanda secca, Franco, hai un minuto, poi devo dare il traffico e vado dal generale Del Vecchio. Franco. Guerra civile, perché gli americani andando via smetteranno di pagare i sunniti, le bande sunnite, le milizie sunnite, e ci sarà una guerra civile tra sciiti e sunniti per prendersi il potere, con i curdi affacciati sul balcone ad aspettare chi dei due sarà il vincitore ed eventualmente a farne delle alleanze. Una prospettiva tipo Libano, guerra civile in Libano dagli anni 70. Insomma, una prospettiva che non certo auspicabile, non positiva. No, è chiaro. Lo dicono i generali americani, non lo dico io. E allora, generale Del Vecchio, l'11 settembre ha portato all'intervento dopo un mese in Afghanistan. Io credo che su quelli intervento ci sia meno dibattito sul fatto se sia stato legittimo o meno. Un po' tutto il mondo ha capito che Al-Qaeda andava sradicata con le sue basi in Afghanistan. Però le chiedo, visto che lei è stato tra il maggio 2005 e il giugno 2006, ma circa un anno, a cavallo tra questi due anni, il capo delle forze NATO, lì l'ISAF, in Afghanistan. Ci sono anche lì dei rapporti che dicono, sempre più allarmati, l'Afghanistan è quasi perso, nel senso c'è Kabul che è una roccaforte, ma fuori da Kabul il movimento dei talebani è sempre più forte, che sta stringendo d'assedio la capitale. È davvero un paese difficilmente riconciliabile l'Afghanistan? Sicuramente la situazione è abbastanza delicata e complessa. L'ultimo anno ha visto indubbiamente un aumento degli attacchi in larga misura in varie parti del paese. Questo denota evidentemente una situazione che è degradata rispetto a quella che era evidentemente qualche anno addietro. Quindi praticamente è una situazione difficile e che va controllata attentamente, se non si vuole evidentemente, come purtroppo da molte parti viene evocato questo pericolo, non si vuole naturalmente perdere un intervento, una guerra che invece noi come comunità internazionale, intendo parlare, dobbiamo assolutamente vincere. Anche da quel punto di vista si parla molto di ricostruzione, insomma noi siamo per esempio molto attivi sia come esercito ma sia anche a livello civile, per esempio per la ricostruzione di tutto l'apparato legislativo dell'Afghanistan. Si tocca con mano, perché sa, quando noi chiamiamo per esempio Alberto Cairo, che come sa lavora da tanti anni lì per la Croce Rossa Internazionale, ci dice le cose che Pagetti ci dice dell'Iraq, cioè io sto qui ma l'acqua non c'è, la corrente non c'è, l'elettricità non c'è, si fa fatica insomma. Ha perfettamente ragione, io credo che in Afghanistan più ancora forse che in Iraq, perché le condizioni di partenza erano indubbiamente diverse, quella della ricostruzione, dell'intervento nel sociale, l'aiuto alla popolazione sia un'arma che vada sfruttata fino in fondo, proprio per evitare che la popolazione orienti i propri consensi nei confronti dei talebani. Quindi la ricostruzione è essenziale. L'Afghanistan ha fatto dei passi da gigante, vorrei ricordare soltanto che l'Afghanistan nel 2001 usciva da 30 anni di guerra e per 30 anni non ha avuto un Parlamento, qualcuno che potesse decidere. Quindi sono stati fatti sicuramente dei passi in avanti, però vanno fatti ancora tanti passi in avanti se si vuole vincere questo conflitto. Con più soldati, per esempio, Bush ha detto promettiamo più soldati, l'Italia ha già detto, anche se qui non si è capito bene perché il ministro La Russa ha detto li manderemo, però forse no, insomma l'Italia contribuisce già molto, credo che sia la quarta potenza mondiale come numero di soldati presenti lì in Afghanistan, una che contribuisce di più. Ci vogliono più soldati, è questa la soluzione? Io sono del parere che la componente militare, sono generale come lei ha ricordato più volte, ma in questa situazione particolare in quel paese la componente militare non possa essere risolutiva. Ci saranno questo incremento di forze da parte degli Stati Uniti, probabilmente altri paesi della NATO concorreranno con un ulteriore sforzo, l'Italia non so se potrà farla perché è al limite delle sue capacità operative, ma certamente quello che mi preme è sottolineare che bisogna avere, a mio modo di vedere, una nuova strategia, una strategia che affianchi a questo intervento militare un rinnovato impegno nel sociale, nella ricostruzione, nella lotta alla corruzione, nella creazione delle forze di sicurezza afghane. E questo è assolutamente importante per il futuro di quel paese. Io, come detto e come avete visto, non si è fatta una puntata e non si fa una puntata su un lancio di scarpe di un giornalista iracheno, anche se, voglio dire, non sottovalutatelo, ma non per darne una valenza di un certo tipo piuttosto che un altro, ma come sapete certi gesti poi fanno la storia, se non altro perché entrano nella storia, nelle immagini, nel fatto che tutto il mondo li veda, e infatti insomma avete visto nel mondo arabo ci sono già manifestazioni con gente che innalza le scarpe sui pennacchi per dire ecco l'emblema della nostra libertà. Al di là di questo, e per tornare a questo, oggi su Repubblica c'è una trascrizione del presidente americano Bush che in viaggio tra l'Iraq e l'Afghanistan ne ha parlato, vabbè, prima ne ha parlato in maniera un po' scherzosa ridendo su questo episodio, poi però alla domanda di un giornalista: mi scusi presidente, vorrei insistere su questo punto, ma questa persona ha manifestato un sentimento generalizzato di rabbia che in Iraq esiste, al che Bush lì ha risposto in maniera molto dura: come fate a saperlo? Come fa a sapere cosa stesse esprimendo? Io so solo che non potete prendere un tipo che lancia le scarpe e dire che rappresenta un sentimento generalizzato e diffuso in Iraq. In realtà quell'uomo ha puntato a catturare la vostra attenzione e ci è riuscito. Franco Pagetti, è davvero così? Secondo te c'è un gesto estemporaneo oppure c'è questo sentimento generalizzato di sfiducia che si può riassumere in questo gesto un po' emblematico? Vedi, è quello che io prima ho detto dei militari italiani. I militari italiani sono veramente, il generale Del Vecchio me lo può confermare perché ha più esperienza di me. Io mi ricordo anche a Patch, quando lui comandava il distaccamento italiano dopo la liberazione della Serbia. I militari italiani sono amati perché hanno un aspetto umano che i militari americani non hanno. I militari americani sono più aggressivi, sono più militari, i nostri sono più uomini, sono più umani, esportiamo, per fortuna abbiamo ancora qualcosa da esportare. In Iraq, nel mondo arabo, l'uso delle scarpe, addirittura è incivile accavallare le gambe davanti alle persone perché si può far vedere la suola delle scarpe ed è un gesto di maleducazione, di grande maleducazione. Dare del cane non parliamone, ma e lanciare una scarpa ancora di più, ma il sentimento che c'è in Iraq nei confronti degli americani, e purtroppo lo dicono anche i miei colleghi americani quando devono girare, che sostengono che la popolarità degli Stati Uniti d'America nel mondo è ai minimi storici. Tu sei sempre stato attento, non l'hai mai fatto, voglio dire, questa delle scarpe? No, io l'ho fatto purtroppo, ma non lo sapevo perché sono ignorante, perché uno dei grandi difetti di noi occidentali quando si ha a che fare con questi paesi, si pensa si è arroganti, si è ignoranti. E a me è capitato una volta, si stava discutendo con una delle mie guardie del corpo, fra l'altro, iracheno, nella casa di Time dove abitiamo, a Baghdad, e si parlava, credo, di calcio, adesso non lo ricordo bene, lui disse qualcosa sul calcio italiano, noi avevamo appena vinto i mondiali, io per ridere presi una ciabatta e gliela lanciai, e ci fu una specie di silenzio, ovviamente non mi è stato detto niente perché... No, ma hanno capito, insomma, che eri. Ho capito che ho fatto una stupidata e mi sono fatto spiegare, poi mi sono profuso in scuse perché sono stato un imbecille. Anna da Roma, buongiorno, l'ultima ascoltatrice. Senta, io ritengo questo, che uno degli errori è che l'America è intervenuta in Iraq come Stato. Se fossero intervenuti tipo la NATO o tipo l'ONU, ma in senso cioè combattendo proprio, perché i soldati dell'ONU molto spesso non possono sparare, non possono fare niente. E poi l'ONU, come lei ben sa, però l'ONU era contraria alla guerra, cioè si è fatta una coalizione, non è che è intervenuta solo l'America, ma una coalizione. Io questo lo ricordo. Però secondo me andrebbe riformato proprio l'ONU. L'ONU dovrebbe essere quell'ente che dovrebbe intervenire in casi, in paesi che hanno dittatori come Saddam. Lei sa che però come si fa a trovare l'accordo all'ONU, organismo nel quale siedono anche paesi insomma che magari erano dalla parte di Saddam. Senatrice Contini, voglio dire, io comunque l'intervento di Anna da Roma lo capisco, nel senso, dice, gli americani sono andati un po' da soli anche se c'è stata una coalizione. Beh, però, no, insomma, io potrei dirgli che il mio collega da Silva è stato ucciso il giorno che eravamo a Baghdad in una riunione. Certo, il capo dell'ONU, sì, quando c'è stata la l'attentato, era... l'attentato... Sì. Sì. Allora era ancora un mio collega, quindi, e l'ONU era presente dappertutto in Iraq, assolutamente, sia a Basora che a Baghdad, e dopo quella uccisione, purtroppo, quella bomba, furono tutti costretti. Però, senatrice, Anna dice, mentre in Afghanistan, io ribadisco, sì, c'è stato un consenso generalizzato, insomma, qualcosa sì, andava fatto per sradicare quelle basi del terrorismo certo, che c'erano sì, di Al-Qaeda. L'Iraq, si sa, è stata la guerra più contestata e lo è ancora, sì, lo è tuttora. Secondo lei non c'è stato un intervento un po' unilaterale, insomma, di andare a testa bassa nonostante le manifestazioni, le ricorda tutto il mondo, l'ONU diceva non intervenite? Guardi, io faccio quello che mi chiede il mio paese e quindi giustamente non mi metto a fare opinione, guardo le situazioni di paesi in guerra e tutta la vita ho fatto questo, quindi le situazioni lì sono estremamente diverse. Pensi che per me l'Afghanistan è un paese da costruire, non da ricostruire, mentre l'Iraq è un paese degli anni 50 nostro. E quando io mi trovavo gli ultimi 4 anni in Bosnia, da lì dovevamo decidere se partire per l'Afghanistan, perché non c'era ancora nella mente diciamo degli strateghi americani o della comunità internazionale il discorso Iraq. Poi siamo partiti per l'Iraq e non per l'Afghanistan, per un soffio, perché dovevamo andare in Afghanistan. Quindi sono due paesi completamente diversi. Il problema vero era l'Afghanistan e dopo anni che la gente non ne ha più parlato, torna. Si sono resi conto che torna. È quello il problema vero. Adesso ovviamente è misto insieme a Pakistan e Iran, ovviamente. Io con questo mi devo fermare. Ringrazio la senatrice Contini, il generale Mauro Del Vecchio, il nostro Franco Pagetti, nostro nel senso che gli amici di Radio 24 lo conoscono, fotoreporter dell'agenzia Seven che lavora per il Time in giro per il mondo, spesso in Iraq. Ci fermiamo qui. Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Mattei in regia. Potete scriverci viva voce @radio24.it. A domattina.